Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Il sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle Porte di Tannhäuser. Buonasera, primo luglio oggi, prima giornata, primo lunedì di questo rovente, direi, luglio sì. del 2024. Siamo nella Wombat Regia, in una delle tane del Wombat e effettivamente, cioè nonostante abbiamo aperto, spalancato tutte le porte, fatto riscontro come riuscivamo, finestre aperte, ventilatori, anti-zanzare... Comunque il comfort non è altissimo, devo dire, faremo istanza ai sindacati, ai Wombat sindacati, perché qui cioè, già non ci pagano, già oltretutto le condizioni di lavoro sono veramente misere, ecco, è così. Ovviamente scherziamo, Radio Wombat è una radio assolutamente volontaria, senza nessun tipo di lucro e non commerciale. E dunque di sfruttamento, libera dallo sfruttamento? Sì, oppure, cioè, come dire, talmente, cioè, ci autosfruttiamo se vogliamo sì, metterla così. No, non è vero. È una scelta consapevole. Lo facciamo per la causa e stiamo qui con voi a subire questo caldo perché vi vogliamo bene, speriamo che voi facciate altrettanto e quindi apprezziate il nostro sforzo. Speriamo siate in un posto un pochino più fresco rispetto a noi. Se nel mentre ci voleste scrivere, vi ricordo che potete scriverci a posta wombat@insiberia.net per le mail. E mentre, nel mentre invece della trasmissione, diretta wombat.vado.li per scrivere sul pad se ci volete scrivere qualcosa. Tra l'altro ci hanno scritto qualche giorno fa probabilmente che c'erano problemi a caricare il sito, si lamentava per un certificato scaduto, sbagliato, farlocco, sì. Pericolosissimo, c'era qualche problema tecnico che però abbiamo risolto, quindi probabilmente se ci state ascoltando in questo momento lo state facendo dal nostro sito radiowombat.net e quindi l'avete già scoperto che adesso siamo tornati online, ma altrimenti potrebbe anche essere che ci state ascoltando dalla vostra radiolina o autoradio. Lo speriamo. E quindi ci state ascoltando alla 13:59 AM, nel qual caso magari non sapete che il sito è di nuovo su e ve lo diciamo noi, ecco. Quindi ben ritrovate alle Porte di Tannhäuser, per chi non lo sapesse, trasmissione che tratta di fantascienza in tutte le sue forme e fogge. Quindi non solo letteratura ma anche appunto cinematografia, arte, arte ne abbiamo parlato quando parlammo di chi era Lovecraft, no? Le opere, cos'era? Sì, era Lovecraft. Ho dei vaghi ricordi. Comunque abbiamo parlato anche di arte. E nella scorsa puntata di, ahimè, 4 settimane fa, perché non più 2 settimane fa, perché purtroppo è saltata, parlavamo di Philip Dick. Esatto, abbiamo fatto una prima incursione nella vita, alle opere di Philip K. Dick. Più che altro ci siamo soffermati sulla sua biografia, che insomma è degna di nota. Vi abbiamo raccontato sia della sua infanzia, insomma, di come è cresciuto, ma anche poi di tutto il suo dipanarsi, della sua vita, dei suoi trascorsi con le varie sostanze. Insomma, abbiamo approfondito direi un bel po' e anche capito perché poi Dick ci ha raccontato tutti questi sogni allucinati e splendidi che insomma amiamo così tanto. Quindi se non l'avete ascoltata, vi invitiamo a riandare ad ascoltarvela. Sul sito Radio Wombat trovate la puntata scorsa, appunto sempre dedicata a Dick, come dicevamo, e questa seconda puntata invece la dedichiamo più alle opere, quindi entriamo nel vivo delle opere di Philip K. Dick e proviamo a raccontarne un po'. Ora, come dicevamo l'altra volta, Dick è uno scrittore veramente prolifico, ha scritto una quantità di opere pazzesca, soprattutto perché le scriveva in pochissimo tempo, tra l'altro. Quindi ecco, ovviamente non possiamo addentrarci in tutte, anche perché scoprirete che insomma siamo dei grandi fan e se ci mettiamo a parlare di tutte le opere non finiamo più, vi suicidate. E quindi abbiamo scelto un po' qualcuna che ci sembrava interessante approfondire e speriamo, come sempre, che sia un po' lo spunto per poi andarvi a cercare o andare a leggere quelle che vi abbiamo consigliato, oppure invece andarvene a cercare di altre che magari vi piacciono anche di più. Anche perché ti devi andare, no, di leggere un certo tipo di libro di fantascienza che può essere con tutte le possibilità che dà la fantascienza, magari non c'è voglia di una roba tristona e pesante in quel momento, hai voglia di qualcosa di più onirico, qualcosa, no? Sì. Allora questi spunti potrebbero essere effettivamente... Sì, anche perché devo dire, Dick, purtroppo forse nella vulgata comune di chi magari anche spesso non l'ha letto, magari ha visto opere derivate ma non l'ha letto, è passato un po' alla storia come lo scrittore della distopia, di opere un po' claustrofobiche, inquietanti. Ecco, no, in realtà ha scritto moltissime cose variegatissime e tra l'altro molto spesso con un umorismo veramente interessante, sì. Quindi tutt'altro che deprimenti. E allora c'è pezzo d'apertura come sempre qui alle porte di Tannhäuser e poi iniziamo a parlare. Tra l'altro ho letto una cosina proprio oggi, vorrei iniziare in realtà ora che ci penso da quello, ma giusto per puntualizzare magari errate conoscenze su Dick legate all'eccessivo uso di droghe. Quindi rimanete qui con noi alle porte di Tannhäuser, parliamo di Philip Dick, le opere di Philip Dick. Sound, holding our mouths as pets. Eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Parliamo delle opere di Philip Dick e la mia sedia va un po' a destra, un po' a sinistra. Speriamo mi regga per questa puntata, perché non lo so. No, guarda, oggi sarà la puntata delle lamentazioni, ci lamenteremo di tutto. Perché tra l'altro veramente fare trasmissione con le cuffie, con 50 gradi, è una sofferenza che non potete capire. Gli manca una ruota, quindi potrei finire se a un certo punto va via tutto. Se di dato sentiamo tipo dei rumori strani, siete che caschi. Esatto. Allora, ti dicevo prima, giusto per lanciarla lì, leggevo oggi un articolo che diceva: ah, Philip Dick è passato alla storia come uno scrittore che scriveva sotto LSD, in cui la droga era un po' la musa di quello che scriveva. E dice: no, in realtà è un falso mito. Non è che ha passato, effettivamente, anche l'abbiamo raccontato bene anche noi. Piuttosto lui si è preso di psicofarmaci, insomma, anfetamine gliene dava. Anfetamine gliene davano per curarlo. Quindi, insomma, non è che fosse astemio da droghe. Ecco, no, quello no, sì. No. Ma non era, lui non scriveva solo assumendo le droghe, ma anzi. Però dice che lui ci marciò tanto, leggevo su questo articolo, nel senso che all'inizio disse proprio agli editori: ditelo, vedi che io mi faccio. Anche perché gli anni erano quelli, esatto. Cioè erano gli anni della psichedelia, quindi probabilmente mica dice scemo. Che lo aiutò nei primi boom, perché no, come vi raccontate, vi ricordate nella puntata scorsa, andatevela a risentire se non l'avete sentita. A un certo punto Philip Dick, che non scriveva fantascienza, per sbaglio compra una rivista e gli finisce in mano una rivista di fantascienza. Da quel momento, diciamo, non solo per quello, ma insomma da quel momento comincia a pensare di scrivere e comincia. Però all'inizio poi non ci scrive veramente, perché non era remunerativo in quel momento. Ancora era presto, avremmo dovuto aspettare poi qualche anno dopo, quando sarebbe attraverso le riviste di fantascienza sarebbe cominciato a essere un lavoro un minimo remunerativo. E quindi lui in realtà cominciò a scrivere, ma scriveva di robe un po' più realistiche, sì, diciamo, sì. Reali, una roba del genere. Scriveva anche forse di economia, forse c'è un di cose. No, questo non lo ricordo. Comunque no, forse mi sbaglio. Quindi niente, quindi lui la cosa era divertente era che lui disse proprio all'editore: sì, di che puntiamo su questo, vedrai, aumenta le vendite. Ed effettivamente all'inizio un po' lo aiutò. Sì, tra l'altro io appunto lo dicevamo nella scorsa puntata e probabilmente, cioè, lui non è che era sotto effetto di LSD, per esempio, quando scriveva le cose, non ne aveva bisogno probabilmente. Sì, infatti. Però ecco, è vero che nell'ultima parte della sua vita specialmente era talmente di fuori e talmente sotto l'effetto davvero di un abuso di psicofarmaci e anfetamine veramente grosso, che effettivamente l'allucinazione ce l'aveva, per cui... come dire, è il confine della realtà nelle sue opere e anche nella sua vita, probabilmente tra realtà e finzione era abbastanza labile. Ma infatti in quel periodo della sua vita, cioè verso la fine della sua, negli ultimi anni, insomma, nella sua vita, lui in un'intervista, quindi questo è anche un po' la cartina tornasole di quanto, cioè, non lo so, via, c'è chi può crederci. Comunque sosteneva che lui scriveva queste cose perché le aveva vissute in un'altra vita. Grande. In un'altra vita, non alla reincarnazione. È un'altra vita proprio in un universo parallelo. Certo. Capito? Certo. Lui, le sue erano reminiscenze, non erano. Ma guarda, ma infatti. Però ci sta, cioè, Bassi. Noi non escludiamo niente, anche perché siamo alle porte di Tannhäuser e c'è proprio vietato di escludere teorie, anche le più bislacche. Giusto. E quindi noi diciamo di sì a tutto. Sì, ha voglia. E quindi sì, entrando un po' nel merito delle opere di Dick, come abbiamo detto l'altra volta, appunto, ha scritto veramente un miliardo di cose, racconti, ne ha scritti innumerevoli, io non saprei veramente citarne quanti, centinaia, una roba mostruosa, e moltissimi romanzi anche, tantissimi. In particolare i romanzi li inizia a scrivere a partire dalla metà degli anni 50, quindi siamo in un periodo, come vi avevamo già raccontato l'altra volta, particolare degli Stati Uniti, primo dopoguerra, e c'era ancora un grosso incubo che insomma, e trauma collettivo che riguardava la fine della guerra. E in molte delle opere di Dick si ritrova tutto questo trauma, tutta questa anche ansia che non ci siamo veramente liberati, esatto, dei nazisti, per esempio. I nazisti ritornano tantissime volte come fossero degli incubi, dei fantasmi, dei mostri nascosti sotto un tappeto che però poi si ripropongono. Un altro leitmotiv è un po' quello della claustrofobia, della vita asfissiante dovuta al controllo, a una società distopica che Dick evidentemente intravedeva. Siamo da lì a poco, insomma, iniziano gli anni del maccartismo, che come raccontavamo già l'altra volta, Dick si è vissuto in piena faccia, e quindi c'è anche tutto quest'altro tema. Poi c'è la questione, invece, mano a mano che si va avanti, ci si mette un po' nel boom economico negli anni 60, entra la questione del rapporto con il consumismo, con i prodotti, con il commercio, con la pubblicità sempre più invadente, sempre più invasiva, e la mercificazione delle nostre vite. Anche questo Dick la butta in qualsiasi opera, devo dire, con sempre una grossa dose di ironia e di, come dire, anche iconoclastia. È molto, a me piace moltissimo leggere Dick perché è veramente divertente come si prende gioco anche del capitalismo, dei suoi mostri sacri e delle sue armi. E questi un po', diciamo, che sono un po' i piani. Altro piano che vi abbiamo già raccontato e che ritroveremo oggi nel dettaglio sono appunto questo suo indagare filosofico su che cos'è la realtà, su che cos'è l'universo, il mondo, sul perché stiamo al mondo, e i vari piani di realtà che non sono mai definiti ma si possono intrecciare e quindi possono portarci a varie interpretazioni. Quindi la realtà come qualcosa di non definito ma che può mutare a seconda dello sguardo con cui la guardiamo. Iniziamo dall'inizio, sì, perché a partire dalla metà degli anni 50, appunto, come dicevamo, che cominciò a scrivere romanzi. Grazie soprattutto al successo, come si diceva all'inizio, non riusciva a avere soldi dalla creazione. Invece il primo romanzo che ebbe successo è Il Disco di Fiamma. Il Disco di Fiamma, che in realtà è un titolo erroneo, nel senso che il vero titolo sarebbe Solar Lottery. Uguale. Identico. Che poi, fra l'altro, scusami, Solar Lottery secondo me poi è stato tradotto in italiano con una roba più simile. Sì. Io penso di aver letto qualcosa che fosse tipo la lotteria solare. Sì, sì, sì, esatto. No, è andata proprio così. Solar Lottery, che viene scritto da lui nel 54, finito nel marzo del 54, ma in dicembre, quindi siamo a marzo del 54, lui finisce di scrivere. A dicembre, su richiesta dell'editore, che era la Ace Book, viene ridotto, ne vengono tagliati 6 passi per un totale di 10.000 parole. Così. Aggiungendone 7.000, quindi la differenza è circa 3.000 parole in meno. Tuttavia, però, nel frattempo il libro era già uscito in Inghilterra. I pasticci. Che era uscito col titolo di World of Change, World of Chains. Cioè, la chance, come si Beh, dice? Beh, sì, sì, sì, sì. Il mondo delle chance, insomma. Questa versione includeva i passi eliminati dalla prima versione statunitense, anche se comunque aveva dei tagli redazionali, ma questo capita sempre. La cosa divertente di questa sua prima opera famosa, diciamo, è che appunto è spiegata bene dal titolo Solar Lottery, perché è ambientato, intanto è ambientato nel 2202, così, tanto per darvi un... No. E qui si inizia ad andare un po' più in là, effettivamente, rispetto al cliché a cui ci ha abituato Dick. Sì, esatto. E niente, fondamentalmente l'intero sistema solare è stato colonizzato dall'umanità, e va bene. La cosa divertente è che il sistema di governo dipende per intero dalla logica e dai numeri. Il metodo Minimax, che il metodo Minimax fa parte della teoria dei giochi, no? Per quello che dicevo, lui aveva parlato di economia. Ragionava di economia. È esatto. vero. La teoria dei giochi, per farla semplice. Come si fa a farla semplice? È difficile. Impossibile. È una disciplina che studia modelli matematici di interazione strategica tra agenti razionali. La teoria dei giochi ha applicazioni in vari campi delle scienze sociali, così come nella logica, nella teoria dei sistemi, nell'informatica e in realtà in mille campi, anche se, economia sì. Pura, è fica, di base la teoria dei giochi è molto interessante. E sta roba si ritrova in Dick tantissimo. Esatto. Il metodo Minimax, usato anche durante la Seconda Guerra Mondiale dalle intelligence di Stati Uniti e Unione Sovietica, vabbè. Con il sistema Minimax il governo dell'umanità viene scelto attraverso una lotteria. Oh, finalmente, guarda, io... Il culo. Ma io ti dirò, io ci starei. Non male. Tanto più o meno. Esatto, cioè, visto che normalmente comunque si siamo fa, lì. Fa schifo, allora tanto vale che poi, se capita il peggio del peggio, è capitato. Poi però rigira la ruota. Esatto. In teoria ogni persona che gode dei diritti civili ha a ogni elezione, o anzi estrazione, perché non è un'elezione, l'identica probabilità di diventare Quizmaster. Vale a dire il capo del sistema della lotteria è l'uomo più potente del sistema solare. Per limitare l'immenso potere nelle mani del Quizmaster, che ci vuole comunque un balances da qualche parte, il sistema di governo prevede anche la possibilità di uccidere l'uomo al potere mediante un omicidio legalizzato, tentato da un solo individuo prescelto durante la convenzione della sfida organizzata dallo scopo. Tipo Bresci. Esatto, cioè rientra tutto. No, non tipo. Cioè, sì. Bresci, grande Bresci. Un Bresci legalizzato. Sì, è un Bresci legalizzato. Quindi è tutto un po' scelto. E la difesa del Quizmaster è affidata alla squadra dei telepati, i telep, uomini dotati della capacità di leggere il pensiero altrui. Quindi è tutto un sistema che si auto-equilibra in questo modo, avendo buoni. Avendo. Non buoni e cattivi, no. Anzi. Non ci sono buoni e cattivi. È tutto un marasma. La paura, forse la paura di essere ucciso legalmente del Quizmaster lo fa stare un pochino più calmo. Cazzo, sta roba per essere del 55, se ci pensi, è incredibilmente avanti. Perché aveva intravisto. Mi viene da pensare, chissà cosa l'avrebbe pensato la lotteria degli Stati Uniti sulla possibilità di entrare negli Stati Uniti attraverso la lotteria e vincere il permesso di soggiorno negli Stati Uniti con una lotteria. Forse ne avrebbe riso, forse no. Non lo so. Chiaramente questo è il plot generico. Poi dopo c'è un protagonista, Ted Bentley, impiegato della Oyselair, non so come si dice. Quello lì che è un po' il protagonista. Fondamentalmente inizia con una lettera di licenziamento, bam, che però lo libera dal vincolo di fedeltà l'essere assunti prevede all'interno di questo sistema. Tra l'altro non tanto lontano da noi, perché chi... Quanti di voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, hanno firmato un patto di fedeltà? Lavorativo? Io sì, io ahimè l'ho firmato. Io no, devo dire, non mi è mai capitato, ma penso di conoscere tipo tantissima gente che l'ha fatto. Sì, sì, che, cioè è una stronzata, ma è incredibile. Oh, ti tocca. È incredibile, cioè... Sì. Che poi nell'informatica ciao. C'è scritto niente, tutto e niente. Sì. Il punto è quello. Comunque... E niente, lui fondamentalmente ora insomma ci volevamo concentrare su altro, però desideroso di dare una svolta alla sua vita e disgustato dalla corruzione che regna nel sistema economico del sistema economico generico, insomma, Bentley decide di lasciare l'Europa e recarsi a Batavia in Indonesia per ottenere un posto di lavoro presso il direttorato. Giunto nella grandiosa sede del direttorato, brulicante di impiegati e robot Macmillan, Bentley riesce a farsi ricevere una coppia di funzionari e quasi inaspettatamente ottiene un impiego come classificato 8-8. Che cosa vuol dire? Leggetelo. 8-8 richiama tante cose, non belle peraltro. Diciamo che è tutto... No. Diciamo che è tutto giocato sul fatto che il Quizmaster, essendo questa figura che può essere uccisa in qualsiasi momento, non si sa mai se è veramente in carica o meno... Se c'è già stato un colpo, è tutto giocato su questo. Molto bellino. E sotto c'è anche tutta una questione anche un po' onirica. Per cui anche in apertura del libro ci sono questi strani fenomeni che stanno avvenendo e che l'umanità comincia a unire i puntini dicendo ma che cosa sta succedendo, forse sono unite queste questioni, forse sì, forse no, non vi dico altro. No, anche perché ci sono moltissimi altri, come dire, sogni che Dick ci ha buttato lì nei suoi romanzi. Uno è, ne avevamo parlato anche nella scorsa puntata e più che altro in quella prima forse, o comunque in una delle di quelle precedenti dedicate alla rivoluzione, a fantascienza e rivoluzione, perché avevamo parlato della svastica sul sole, The Man in High Castle, e, l'uomo nell'alto castello in italiano, e che era, se vi ricordate, questa ucronia dove Dick immagina che gli alleati abbiano perso la guerra, i nazisti hanno vinto, e quindi in qualche maniera si prefigura si delinea un mondo al contrario di come l'abbiamo visto, ovvero un'Europa divisa, spartita tra i nazisti, i giapponesi, e gli italiani contano un cazzo, perché comunque lì non era... Non me lo ricordo gli italiani, io mi ricordavo che comunque gli italiani, cioè, li buttava giù abbastanza velocemente. E quindi si immagina un po' questo mondo al contrario, e lì dà corpo Dick un po' evidentemente a tutti i vari timori e angosce della sua generazione. Non ci soffermiamo troppo su questo romanzo perché ne abbiamo già parlato lungamente nella puntata dedicata appunto a fantascienza e rivoluzione, e se ve la siete persa comunque vi consigliamo il libro, è molto bello, è uscita anche una serie tutto sommato piacevole, godibile. C'è due bravi attori, devo dire, aiuta, sì, sì. È una buona scrittura. La cosa interessante, per darvi il coso, ne abbiamo già parlato però, è la questione del quello, cioè non solo è un'ucronia in cui appunto è cambiato qualcosa storicamente, quella minuzia che ha cambiato un po' tutta la storia, ma in realtà c'è la questione del film, cioè del film nascosto dello sbarco in Normandia, no? Che diventa un film di contrabbando perché per come c'è, cioè, questa cosa della memoria collettiva che scompare all'interno. È lì la figata di questo romanzo, secondo me. La cosa bella è che parte come un'ucronia abbastanza scontata, nel senso, ecco, brava, che effettivamente non è, non solo lui, certo magari sono venuti dopo, però diversi hanno teorizzato, vabbè, e se invece avessero vinto i nazisti, mille persone, e da lì si può dire mille cose. No, invece effettivamente la cosa veramente interessante di questo romanzo è che lui parte così ma poi scompagina tutto, poi in realtà i piani della realtà si mischiano con le 16 volte, per cui tu a un certo punto non sei più sicuro di un cazzo, sei sicuro di quale, ma alla fine, ma chi è che ha vinto davvero, ma cosa è successo, ma che ci stanno raccontando, è tutto molto confuso, e questo è spaesante ma anche molto molto bello, molto affascinante. Sono d'accordo. Poi, sempre per dare una sorvolata per ora delle varie opere, un'altra molto, molto bella di cui vi volevamo un po' raccontare è Le tre stimmate di Palmer Eldritch. Fico. Che non è tanto citata, devo dire, no. Cioè non è tra quelle che figurano più spesso, ma anche lì c'entrano i giochi. Il gioco è visto come un elemento centrale nella vita degli esseri umani, e questo devo dire è un'intuizione di Dick che non hanno avuto in tanti. È molto, molto divertente, molto interessante. Palmer Eldritch, un romanzo del 65 che riprende in realtà degli elementi di un altro racconto, questa volta un racconto più breve che aveva fatto uscire poco tempo prima, che si chiamava I giorni di Perky Pat, The Days of Perky Pat. Tra l'altro molto bellino anche quello, un racconto piccolo, se non l'avete letto vi consiglio di leggerlo, molto bello. E Le tre stimmate di Palmer Eldritch è incentrato sulla concorrenza tra due imprenditori, questo Leo Bulero e Palmer Eldritch. Leo Bulero vende ai coloni terrestri su Marte, siamo insomma parecchio in là nel futuro, gli esseri umani hanno colonizzato Marte, non solo, e i coloni su Marte non se la passano troppo bene, non sono molto contenti di star lì, come spesso in realtà viene detto in tante opere di fantascienza, sì, bello bello, colonizziamo altri mondi, ma la nostalgia di casa ci rimane e comunque sia, non è che proprio si sta da Dio su Marte. Quindi loro non stanno tanto bene e questo Leo Bolero che fa? Gli vende agli umani che stanno coloni su Marte dei plastici di case terrestri con delle riproduzioni in miniatura di mobili elettrodomestici dentro la quale posizionare questa bambola per Kipat. Per Kipat è una bambola che fondamentalmente è la Barbie. Eh sì. Cioè, voglio dire, si tratta del momento in cui la Barbie è nata, cioè si parlava del 65, erano gli anni in cui la Barbie stava iniziando a diffondersi, non adesso con tutto quello che magari potrebbe essere anche la critica alla Barbie, al suo immaginario, una critica che insomma ha passato dei decenni e tante lotte femministe. No, ecco, si tratta dell'inizio, di quando la bambola Barbie era abbastanza incriticata, come nasce dire. Nel 59. Esatto, quindi era lì, era proprio lì. E Perky Pat è questa bambola che deve, come dire, incarnare un po' la donna di tutti i giorni, la vicina di casa, quella che incontri tutti i giorni e che ha tutta la sua vita con il suo marito, i suoi figli e fa questa vita, diciamo, borghese statunitense nella sua villetta schiera. Ecco, questa bambola qua con tutte le sue, con tutti i suoi giochi, le sue mobili, le casette, tutto quanto, è un gioco a cui non giocano tanto i bambini, ma gli adulti, perché appunto nelle colonie di Marte questi adulti distrutti dalla noia e dalla malinconia e della terra e della loro vita che sognano e che non hanno e che non possono avere, si ricreano questo mondo, anche piuttosto immaginario a questo punto, con queste bambole e quindi passano queste serate a giocare a Perky Pat. Quindi ci sono queste famiglie, in questa società molto sarcasticamente, sardonicamente descritta da Dick, in cui ci sono questi bambini che si rompono tantissimo i coglioni perché i grandi non fanno altro che giocare a sta bambola per Kipat, e questi grandi appunto che passano le serate a bere, a sbronzarsi e a giocare a per Kipat. E a drogarsi. A drogarsi, perché fondamentalmente lo scopo è dimenticare dove stanno, far passare la noia e provare a così edulcorare la loro vita che gli fa schifo. E se tutta questa cosa vi sembra avere poco a che fare con Marte e molto a che fare con la vita di tutti i giorni degli anni 60 di magari un quartiere statunitense, ci state probabilmente prendendo, perché era probabilmente quello che pensava Dick. Questa era, vi dicevamo, era la vicenda era tra due imprenditori, i protagonisti erano questi due imprenditori. Uno è quello che ha inventato la bambola Perky Pat e che l'ha fatto grandi soldi spacciandola evidentemente a questi coloni di Marte, e l'altro... Ah no, scusate, mi ero dimenticato questo pezzo. Che poi, oltre alla bambola Perky Pat, c'è anche questa, lui smercia anche questa droga illegale, ma comunque tollerata dalle autorità, perché evidentemente aiuta a passare la vita e esatto, farsela prendere bene. Questa droga che si chiama Candy e che fa la combo con la Barbie, fondamentalmente. Ti aiuta a immergerti in questa idea di vita classica occidentale, anzi americana. Sì, dove appunto la Perky Pat è questa bella e giovane donna bionda, sogno americano. L'uomo è anche lui Walt di successo, muscoloso, ricco, bello, ricchissimo, con queste macchine con cui porta in giro Perky Pat, insomma tutto quello che potete immaginare pensando alla Barbie. E invece l'altro concorrente di Bolero è Palmer Eldritch, che invece che è un po' un cyborg, è un personaggio un po', sì, sinistro, che comunque ha perso tutti gli occhi, ha fatto un disastro, che però gira un po' il mondo, è un esploratore, è un personaggio un po' ambiguo, è un po' una specie di corsaro che gira e poi trova robe, le spaccia, eccetera. E lui a un certo punto trova e mette sul mercato una nuova droga, il Chu Zeta, Chiusi? Sì. Chiusi, che capito? Si legge Chiusi. Candy, no. Caramella, no? E Chiusi, l'ho capita ora. Vabbè, scusa. Che però sta droga è parecchio più figa, diciamocelo, dà delle esperienze di vita molto più interessanti, mentre invece quelle che erava il candy erano un po' sempre uguali, sempre ripetitive, un po' noiose, diciamocelo, come la Barbie. Invece questa droga creata da questo concorrente, da questo Palmer Eldritch, invece sono un po' più briose, un po' più interessanti. E quindi le vicende di questo The Days of Perky Pat sono appunto incentrate su questo faida tra questi due concorrenti. Come vedete, insomma, questo ricorre molto nei romanzi di Dick, nelle opere di Dick. Si parte spesso da delle aziende, da un mondo commerciale, dal commercio, dal mondo aziendale. Dick permea la sua realtà di commercio, di pubblicità, di cose che apparentemente dovrebbero essere basse e che non appartenere alla letteratura, e lui invece dice no, questa roba fa parte proprio della nostra vita fino al midollo, e quindi ci riempie i suoi libri, e quindi si parte da questo. Fico perché si dice anche abbia un po' dato il via, perché siamo appunto negli anni, all'inizio degli anni 60, dice sia una di quelle cose che ha dato il via alla creazione del gioco di ruolo, perché di fatto fanno giochi di ruolo questi terrestri abitanti di Marte. Interessante, non lo sapevo. Ma tra l'altro magari lascia il tempo e trova, non lo no, so. Ma ci sta. Tra l'altro, non nelle tre stimmate di Palmer Eldritch, ma nei giorni di Perky Pat c'è. Questo a un certo punto è molto buffo, perché ci sono, per caso, siccome i coloni di Marte sono divisi appunto in gruppi, in coloni, eccetera, e si parlano attraverso delle radio, ma la comunicazione è difficoltosa e comunque c'è sempre una grossa separazione, non si parlano tanto. A un certo punto nasce tutta una comunicazione e questi gruppi di umani si riniziano un po' a frequentare, perché si scopre che oltre a Perky Pat esiste un'altra bambola, ci sono degli altri umani dall'altra parte del pianeta che hanno un'altra bambola che è diversa, fa cose diverse, c'ha i capelli diversi, la macchina è diversa, il compagno è diverso, e quindi da lì si crea tutta una curiosità anche veramente insistente. Oddio, ma quindi questi altri hanno un'altra bambola? Sarebbe fighissimo poter giocare con quest'altra bambola. E da lì si restaurano un po' i rapporti tra gli esseri umani. Pazzesco. Assurdo. Pazzesco. E è pazzesco, tra l'altro, sempre per rimanere in termini di Marte, noi marziani. Perché in noi marziani gira tutto intorno alla figura di un ragazzo autistico, che per essere negli anni 60 era una roba forte. Avantissima, sì sì. Veramente forte. E per farvela breve, racconta la storia della famiglia e di questo protagonista, appunto questo ragazzino appunto con la sindrome affetto da autismo, Manfred Steiner. E si gioca poi tutto sul, appunto, per esempio, le macchinazioni di Ernie Kott, che è il capo del sindacato degli idraulici, dunque una persona molto importante, perché su Marte l'acqua è una roba fondamentale, che dice, che teorizza questa cosa per cui l'autismo ti distacca, ti porta a un tempo ad accostarti al mondo con un tempo diverso, e quindi ti porti anche a poter prevedere il futuro. Cioè, grande. E quindi c'è, cioè, insomma, appunto questo Kott, questo Ernie Kott cerca di interagire in qualche modo architettando una speculazione edilizia sui monti, su due monti dove le Nazioni Unite intendono costruire grandi e squali di mega complessi di case popolari, cercando di sfruttare questa perché no? No, esatto, questo superpotere degli autistici, ecco, del nostro protagonista nello specifico, Manfred Steiner, che poi rimane poco dopo l'inizio del romanzo, rimane senza il padre, quindi chiaramente più cupo, immagino. Sì, no, ma dico più facilmente malleabile da un certo punto di vista, no? Non c'è più il padre che lo aiuta, però questo non basta, perché Perché comunque in effetti Manfred vive nel futuro ed è questa la sua maledizione, perché la sua coscienza si trova intrappolata proprio in uno di quei complessi che verranno costruiti di case popolari. E quindi effettivamente c'è questa connessione con il futuro. Niente, cos'è il... quei complessi, il tetro e cadente edificio A.M. Webb, che è un'ironica citazione del testo di Schiller che Beethoven ha usato per il quarto movimento della Nona Sinfonia, lo sapevi? Come dice... No, assolutamente, ma come dicevamo, Sid Dick ci mette spesso citazioni di musica classica, era un grande fan. Tra l'altro, la cosa che dicevi riguardo all'autismo in generale mi fa pensare che effettivamente Dick ha l'altra cosa che ce lo fa stare simpatico e che veramente lo rende un autore incredibilmente meraviglioso, è che c'è sempre una rivalsa dei personaggi giusto, sfigati, più maltrattati, quelli che vengono anche messi ai margini della società perché magari considerati anormali, con sindromi, con che non come dire, non ricalcano la perfezione che invece il mondo patinato vorrebbe. E quindi tutte le persone che adesso noi chiameremo neurodivergenti, con un filo di attenzione in più, e ricordiamoci, siamo negli anni 60, non c'era questa attenzione, non c'è adesso, figuriamoci al tempo. In Dick questi personaggi sono tutti personaggi che hanno una grossa rivalsa, cioè che comunque diventano dei personaggi da reietti a in qualche modo persone con particolarità utilissime, importantissime, e che li rendono speciali in senso positivo, e riescono a uscire dalla monotonia, quindi in qualche modo sono anche invidiabili, perché di fronte alla monotonia, alla noia di tutti i giorni, loro sono persone che invece fuggono dalla norma, dalla normalità, e hanno delle vite molto più interessanti e molto più belle per certi versi. E questo è effettivamente un'altra delle doti di Dick. Sono d'accordissimo. Ci fermiamo un secondo per riprendere fiato. Ci ascoltiamo Canonize Philip Dick. What we do that easy to say, I'd like to hear you say it. Panic is what we do. Say Canonize Philip Dick. Okay. Some good, you'll do 25 years in a cubicle wishing that you panic is what we do. Is that easy to say? Then let's hear you say it. Panic is what we do. Say canonize Philip Dick, okay. Some imagination learn to keep secrets too. You don't change the world by saying in your office, sitting in your office is changing you. Learn to burn bridges, get good at it. Count the ways you can make the world a better place than throwing a factory code. Eh sì, c'eravamo un attimo, come dire, appisolati. No, non è vero, ci eravamo messi a chiacchierare e contavamo sul pezzo che durasse molto di più. Quindi dicevamo, i simulacri e il famosissimo cacciatore di androidi sono un po' gli prossimi due romanzi di cui vogliamo parlare, perché comunque, ok tutto, però, come dire, sono due romanzi imprescindibili che non possiamo non citarvi. In particolare partirei dai simulacri, che dici? Per forza. Del 64, quindi siamo un pochino più avanti. È un romanzo corale, ecco, questo nelle opere di Dick succede spesso, molto spesso non c'è un singolo protagonista o la singola protagonista, molto spesso la letteratura e i film ci hanno abituato a questo eroe solitario a cui gliene capitano varie, che poi può incontrare altri personaggi, ma comunque la soggettiva è sempre la sua. Invece in Dick molto spesso i romanzi sono corali, anche questo probabilmente per voler sottolineare questo questa molteplicità di punti di vista, come sempre a voler dire, ma la realtà non è mai una sola, ce ne possono essere tante. E anche in questo caso si parla di una serie di situazioni, di mondi che si intrecciano e di personaggi le cui storie a un certo punto finiscono con incontrarsi. Ci sono delle industrie multinazionali, questo è un po' il dato centrale, che costruiscono degli androidi da sostituire ai presidenti degli Stati Uniti. Cioè via via, anche qui non c'è una lotteria, questa volta ci sono delle elezioni più classiche, ma il presidente eletto in realtà è un androide. Gli esseri umani non lo sanno, ma le industrie sì, perché ce l'hanno piazzato loro. Quindi qui c'è un'allegoria neanche troppo velata, direi, forse per niente velata, di che cosa pensava Dick della democrazia contemporanea. E poi ci sono molti altri elementi interessanti. Per esempio c'è un ebreo che ha fondato un movimento neonazista, così con uno scopo, però dai, sì vabbè, diciamo opinabile, come dire. Poi c'è la First Lady che grazie a una macchina del tempo progetta di portare Göring nel presente per trattare con lui la salvezza degli ebrei deportati nei lager, e in cambio gli offre delle armi che avrebbero assicurato la vittoria dei nazisti. Quindi anche lì particolare. Sicuro. Sì, tranquilla, non ti fanno niente. Andrà sicuramente. Se vincono così. Poi. Sì, andrà così. E poi così la butta là, c'è anche la presenza di uomini di Neanderthal nella California settentrionale, chiamati Chopper. Probabilmente il risultato di contaminazione da radioattività. Quindi lui mette tutti questi elementi insieme. Incredibile. In questa maniera un po' sempre come suo modo di fare, abbastanza onirico. E però, come dire, tutto ruota un po' intorno a questa specie di complotto, che non è veramente un complotto, è semplicemente la realtà di queste multinazionali che ormai hanno sostituito il giochino delle elezioni democratiche con questa farsa dove loro di fatto fanno governare gli esseri umani da degli androidi, e ovviamente questi androidi sono cioè il software che fa parlare gli androidi è dettato dalle multinazionali, quindi marionette a tutti gli effetti. Tra l'altro lui prevede l'esistenza di una USEA, Stati Uniti d'America ed Europa. È vero, perché come in altri romanzi lui divide la geografia in maniera diversa, la geopolitica, e quindi non mi ricordo più, mi sembra che si tratta degli Stati Uniti che si uniscono con la Germania dell'Ovest. Sì, esatto. Durante la guerra fredda, diciamo, sì. L'ucronia è lì, sì. In qualche modo. È interessante anche, per esempio, che in questo mondo, appunto, sono stati messi fuori legge gli psicanalisti. Sì, è vero, è vero. E c'è questo tipo che è schizofrenico, non riesce, non può curarsi perché gli psicanalisti sono illegali. È un povero pianista telecinetico. Bellissimo. Però va verso l'autodistruzione perché... No, questa roba è meravigliosa, secondo me. E i simulacri sono un po'... cioè, è come dici tu, il senso del simulacro è proprio questo. Cioè, i presidenti non sono altro che simulacri, perché sono robot. E quindi non veramente dei presidenti e tutto quello che vuoi, sono dei simulacri di presidenziali in qualche modo. Sì, ecco, fra l'altro, per sfatare un mito, in tutto questo Dick non ci pensa neanche un attimo a ipotizzare che gli androidi abbiano un'intelligenza superiore. Vero. Tutto il tema dell'intelligenza artificiale vista come qualcosa che supera l'essere umano, il postumano, come un qualcosa di migliorativo. Cioè Dick neanche per un attimo ci pensa. È vero, è interessante. Ma in tutte le sue opere, cioè... Sì, l'unica... Tutte no, la maggioranza però. Sì, l'unica dove accenna vagamente a questa cosa per l'appunto è Blade Runner, cosiddetto, ovvero Cacciatori di Androidi, dove si parla di questi Nexus 6, che sono questi modelli di androidi particolarmente evoluti, particolarmente intelligenti. Ma anche lì è strano, è come se si trattasse un po' di ammicca un po' agli ariani, no? A questa razza superiore di esseri umani, ma che poi si rivelano essere in fondo assolutamente uguali agli altri. Non, anche lì la sfata. Eh sì, alla fine questi androidi sono talmente avanzati che diventano esseri umani, non superumani. Sì, sì, certo, fisicamente sono superumani, ma è l'anima in qualche modo, è, sì, la mente. Sì, e comunque poi sono finiti anche loro, muoiono anche loro, cadono anche loro. Quindi in realtà è tutt'altro. In Blade Runner c'è tutto il tema degli dèi che cascano, della caduta degli dèi. Però in fondo questi androidi fin da subito si capisce che non possono essere gli dèi. Sono gli esseri umani che li provano ad eleggere come i loro dèi, ma senza riuscirci, senza che poi davvero questa cosa sia vera. E quindi questo è interessante perché non c'è... in realtà devo dire che io in quasi niente della fantascienza, ma neanche nel cyberpunk, ritrovo quella cieca speranza nella tecnologia, come se la tecnologia dovesse superare i limiti dell'essere umano. Questa è una favola, vero, che ci diciamo noi che parliamo della tecnologia. Noi, io no, sì. Te neanche, però ecco, è più una roba neocon magari. Però ecco, non la fantascienza non c'è. Elon Musk magari aveva letto un sacco di fantascienza, non si è capito quale ha letto, perché non c'è sta roba del transumanesimo in realtà. Non mi fa parlare di Elon Musk. Non vai, ne parliamo, perché... signora. Guarda. Mia. Guardi, Cacciatori di androidi, Blade Runner, va bene, ora magari dopo ne accenniamo altro, però insomma, storia famosa, tendenzialmente l'adattamento cinematografico il coglie abbastanza bene il nucleo. Però il libro è, il romanzo è qualcosa di più, ti dà molti più spunti, ecco, tutto sommato. Sì, ora effettivamente balza agli occhi il fatto che Blade Runner fosse sicuramente preso dal Cacciatore di Androidi, ma la trama non c'è, cioè c'ha degli accenni, ma non ricalca la trama, esatto, del libro, ovviamente. Infatti molte persone che leggono il libro dopo aver visto il film ci rimangono un po' così, perché non si aspettavano. Effettivamente è incentrato su altro il libro. Anche semplicemente il fatto che nel Cacciatore di Androidi il mondo è una danda desolata, inabitabile, la gente tendenzialmente vive, o tutti vivono, non mi ricordo, forse tutti o qualcuno, nelle colonie extra terrestri. Non tutti, ma quasi, sì. Invece nel film sembra che ci sia comunque una società decadente, quello che tu vuoi, però c'è sulla Terra, vivente. Anche molto simile alla nostra, in fondo, se non un po' più avanzata, ma insomma, tecnologicamente, ma insomma. Sì, però ecco, quello che sicuramente coglie il film, almeno sicuramente, secondo me, è questa sensazione enorme di malinconia e di nonsense, non è un caso, insomma, che Ridley Scott ha ambientato Blade Runner in un'eterna pioggia. Questo nel libro, vero, non c'è, vero, però vero, effettivamente è come se ci fosse. Forse più nel secondo si sente questa sì, terra desolata, che mi dicevi prima che ancora non hai visto, ma c'è sì, un po' questa sabbiosità, questo deserto che avanza. E invece è vero, invece in quello di Ridley Scott c'è, cioè, al contrario, molta pioggia, ma entrambi servono un po' a sottolineare questo ineluttabile, questo rendere l'essere umano solo, in balia degli eventi, anche in qualche maniera, di agenti atmosferici ineluttabili e più grandi di lui. E quindi sì, Blade Runner fondamentalmente vede le vicende di esseri umani e androidi all'interno di una terra che è stata stravolta da una guerra nucleare, che l'ha ridotta a un pianeta, come dicevi, di fatto desolato, post-apocalittico, più o meno inabitabile, e quindi chi se l'è potuto permettere, gran parte degli esseri umani sono migrati nelle quelle che vengono chiamate le colonie extramondo. E dato che nel libro è centrale, nel film viene giusto qualche pennellata, ma invece nel libro è centrale, gran parte degli la maggior parte degli specie animali si sono estinte, e gli animali all'interno di Blade Runner sono centrali, è vero, perché è come se fossero, sì, il legame, il gancio con la natura, con sì, sì, qualcosa che non è artificiale, il contrario dell'artificio. E quindi l'Arcadia, su tutte ste pippe anche un po' filosofiche, però effettivamente fanno parte dell'ancestrale è essere quella umano. Che nel film viene resa un po' con gli origami, no? Sì, con gli origami, con la c'è il barbagian, cos'era, un barbagian o una civetta, non mi ricordo. Non a un certo ricordo. Punto ci sono degli animali, il cavallo, io. Sì, ma c'è anche a un certo punto che nella versione originale c'era la cavalcata del cavallo, sì, e poi ritagliata. È vero, nel director's cut. No, ci sono degli animali che ricorrono anche nel film, ma nel libro proprio è centrale, perché la storia, vabbè, Richard Deckard, qui anche, insomma, è il protagonista di fatto è lo stesso, è un cacciatore di taglie che vive con sua moglie, il film la moglie non pervenuta, comunque moglie Iran, a San Francisco, e vabbè, e c'è un po' la loro vita, che è una vita molto annoiata, molto vuota, con di fatto molta depressione. Ci sono, il libro si apre con questo dialogo dove loro fondamentalmente parlano del loro miglioratore d'umore, cioè di questo, sì, aggeggio tecnologico che la mattina quando si svegliano gli somministra cose per cui riescono a farli a sopravvivere. Quindi questo mondo apatico dove loro stanno di base di merda. E in questo contesto ci sono questi 8 androidi del tipo Nexus 6, come si diceva, questo super nuovo tipo molto evoluto, di una tecnologia molto avanzata. E questi androidi sono fuggiti dalla colonia extramondo di Marte in maniera rocambolesca e anche un po' cruenta. 2 sono stati eliminati, ma i restanti sono in fuga e sono a piede libero. E quindi Deckard, che è fondamentalmente un cacciatore di taglie, viene sia nel libro che nel film incaricato di cercare questi 6 androidi e eliminarli. La questione è che, molto centrale dentro il film, anche nel libro, anche se in modo diverso, questi androidi non sono così riconoscibili a occhio nudo, non è così facile capire che non sono esseri umani. Quindi tutto si gioca sulla questione: ma che cos'è essere umano? Dove è il confine tra umano e artificiale, tra naturale e artificiale, in cosa si distingue un essere umano effettivamente. Ma al di là di questo, una cosa mi ha colpito molto, perché nel libro davvero ricorre tantissimo, Deckard, uno dei motivi per cui davvero accetta l'incarico è per dare un certo modo un senso alla sua vita, perché ce n'ha bisogno, diciamo, ma anche per superare questo stigma sociale che lo affligge, perché lui non possiede un animale domestico vivente. Cioè, tutte le persone, a partire dal suo vicino di casa, che non è sto gran ricco, è il suo vicino di casa, ma tutti hanno un animale, che è lo status symbol, perché possedere un animale domestico, che può essere una capra, può essere un gatto, un cane, i gatti e i cani sono rarissimi, ma insomma, qualsiasi cosa, una lucertola, è vera, non androide, ma insomma, in carne ed ossa, è uno status symbol che ti in qualche modo lega, evidentemente, ti rende umano, cioè ti lega al tuo passato, ti rende anche... Cioè è come se ti stesse dicendo: ok, tu vieni da quel mondo là, sei quello, derivi da quello. Deckard non ce l'ha, cioè lui non lo può dire a nessuno perché se ne vergogna da morire, ma lui c'ha una pecora, e questa pecora è finta, è artificiale e sta pure male, si sta rompendo perché è vecchia e quindi sta in cortocircuito, cioè si vede che non è vera. E quindi questa cosa lui gli crea veramente un'angoscia grossa. Ovviamente tutto questo c'è molto di simbolico, cioè non è che scemo Dick, non è che gli interessava proprio l'animale di per sé, e quindi è per questo che lui in qualche modo decide di accettare questo incarico, per lui anche un po' pesante in fondo, di andare a eliminare questi 6 androidi per avere questo status, quindi di potersi elevare sopra gli androidi. Io sono sopra la macchina, le posso eliminare le macchine, e quindi mi merito di essere denominato essere umano naturale, vero, vivo. Tra l'altro, reggimi se sbaglio, perché poi in tutto ciò lui sta in questo condominio, no? C'era questa... la questione del condominio. Sì, io me la ricordo vagamente. Anch'io, mannaggia. Perché poi, sì, è vero però, perché in... Cacciatori di androidi questa cosa dei condomini c'è almeno in 2 occasioni, perché c'è sia il condominio dove vive Deckard con tutti i suoi problemi di vicinato, esatto, e sia nel condominio dove va a vivere una di questi androidi, Rachel, non mi ricordo come si chiama. Comunque una degli androidi che si rifugia in questo condominio, che è un condominio completamente disabitato, l'unica persona che ci sta è questo svalvolato, un po' lo scemo del villaggio, potremmo chiamarlo così, come figura topica, e sì, e lui, cioè, appunto, lei sì, si rifugia in questo condominio perché di base spera di poter passare inosservata, esatto, e d'altro canto quest'altro tipo un po' svalvolato lo capisce che lei è strana e che non è come lui, però è così bello avere una persona intorno e che gli dedica attenzioni, che quindi in qualche modo non la denuncia e si crea questo rapporto. Quindi sì, anche i condomini hanno il loro interesse in Blade Runner. Sì, sì, perché il condominio è poi anche un po' una metafora del mondo, della società, chiaramente sei costretto a stare vicino a quelle persone perché ci abiti e è un qualcosa che ti circonda e ti rinchiude, e nel bene e nel male. Sì. Nel bene e nel male, bene e male che deriva anche poi da te stesso in realtà, da quanto sei folle, da quanto sei appunto come Decker influenzabile dalle pressioni della società, cioè avere l'animale è uno status symbol, ma che te frega Decker, che te frega, e invece no sei Robert Redford, esatto. Tra l'altro, e invece no, no, come Robert Redford, no, scusami, come si chiama l'altro, ah, lui è Indiana Jones, sì. Ian Solo, ora lo vado a Harrison vedere Ford. Harrison Ford, oh. Lo vado a vedere sull'internet. Robert Redford, no, quello è l'altro. No, infatti, quello lì è ho biondo. Detto di sì, poi ho detto no, aspetta, no. Poteva, però. avrebbe potuto. Ci siamo dimenticati, non ci siamo dimenticati, ma qualche anno prima, nel 1957, c'è un'altra interessante opera di Philip Dick che non abbiamo citato, che è L'occhio nel cielo. Giusto. Altra opera interessante perché ci porta a anche quella parte, ne abbiamo parlato appunto nella scorsa puntata, la questione della è interessante perché ci porta alla questione della religione, cioè è un grande inventore di religioni inesistenti, Philip Dick, in tanti dei suoi romanzi, anche alcuni di quelli che abbiamo citato ora e che, di cui non vi abbiamo detto quella parte lì perché magari meno importante, ma c'è sempre una nuova religione creata in qualche modo, e in questo romanzo è abbastanza preponderante, e soprattutto in questo romanzo è un po' quello che evidentemente ha portato alla creazione di Inception. È vero. Perché sai che non ci avevo pensato, e ci sta, Poi sai, non è che ho letto tutto lo scibile su ciò, però lo ricorda molto. Perché vi dico questo? Perché L'occhio nel cielo parte, tra l'altro, allora la cosa interessante è che Philip Dick lo ambienta nel 1959. Inizia la storia nel 2 ottobre del 1959 e dice vabbè, futuro di che? Futuro sì, perché lui lo scrive nel 55, quindi è futuro in quel momento. Sì, ma è tipo 4 anni dopo. Futuro prossimo, però è un futuro. Molto interessante, ambientato in California. Appunto, praticamente Jack Hamilton, che è il protagonista, cioè un ingegnere, uno dei protagonisti, è un ingegnere che lavora in un'industria missilistica, è impegnata nella difesa, quindi interessante questa cosa del chi lavora per la costruzione di armi e quali effetti poi ha nella vita, diciamo, questa cosa qua. Sì, tra l'altro, scusami se ti interrompo, Dick, molto spesso i suoi protagonisti sono dei tecnici o comunque degli artigiani, delle persone che hanno riparatori, persone che hanno a che fare col pratico. Sì, ma anche il cacciatore di androidi, tutto sommato, lui è esperto nell'interrogatorio, non lo so, è un cacciatore di taglie, va bene, però c'ha questa parte effettivamente tecnica più che sì, artigianale. Esatto, più artigianale. Uh-huh. È ambientato nella Guerra Fredda, chiaramente, per forza di cose, siamo nel 59 e lui l'ha scritto nel 55, quindi sa perfettamente che da lì a 4 anni tendenzialmente sarà uguale e che la Guerra Fredda sarà in atto. Se non peggio. E cos'è la Guerra Fredda? La Guerra Fredda è, e lui l'ha vissuto sulla sua pelle, la paura di spie, infiltrazioni, la paura del comunismo in America e viceversa, chiaramente. Il nemico che non si vede, il nemico che si nasconde. E infatti subito viene preso un po' da... viene acciuffato, diciamo, dalle maglie della sicurezza interna dell'azienda, perché la sua moglie è impegnata sui diritti civili e quindi di conseguenza sicuramente è comunista in qualche modo. Però pure lei. Esatto. La cosa interessante appunto è che fondamentalmente... a un certo punto vanno a visitare il Bevatron, che è un acceleratore di particelle, che subisce un malfunzionamento e fa sì che la piattaforma panoramica in cui loro sono li porti a svedire fondamentalmente, e loro sono lui, sua moglie e altri 5 persone, 5 che sono gli altri protagonisti della storia. Questo perdere i sensi li farà risvegliare in un mondo che non riconoscono. E qui si arriva al punto della religione, perché è un universo dove domina uno strano culto religioso, il babismo. Questo babismo è fondamentalmente dove i peccati vengono puniti immediatamente da una divinità che, appunto, l'occhio nel cielo vede. Lo vede subito e ti punisce immediatamente. Ben presto scopriranno, poi non vi dico tutto il resto, ma ben presto scopriranno che questa in realtà non è un mondo realmente esistente, ma è il mondo all'interno della psiche di uno di questi 7. E da lì inizia la corsa per cercare di scappare da questo mondo, nella psiche di uno di loro 7. E in realtà questa fuga sarà rocambolesca, perché finirà da una psiche a un'altra, in realtà. Sì, questa cosa è bellissima. E allora è qui che Inception è... ora non è proprio uguale, però ricorda molto. Beh, sì. No, è bellissima perché poi ogni mondo creato dalla psiche di uno di ognuno di questi personaggi che stanno lì è dominata dalle paure, dalle meschinità, dal bigottismo. Cioè, sono tutti mondi, però non mondi ideali. Cioè, non è che becchi il mondo come lo vorrebbe quella persona, no, proprio il mondo delle sue paure. Quindi, come se fosse proprio l'inconscio. Le pulsioni più nascoste, più segrete, il razzismo, quello vero, la paura del diverso, tutte queste robe qua. E quindi sì, è molto, molto acuto secondo me, Dick, è molto affilato anche. Sì, sì, sì. Il babismo non l'ha inventato lui, il babismo è una religione realmente esistente che nella seconda metà, diciamo, dell'Ottocento si diffuse in Persia e Bab, che dà il nome al babismo, vuol dire porta. E quindi da lì la porta da una psiche all'altra. Bellissimo, bellissimo. Che tra l'altro, come dire, è un po' anche il suo modo di dire noi siamo sempre negli incubi di qualcun altro. Cioè la nostra realtà è l'incubo di qualcuno che si è trovato al potere e ha deciso di farci vivere il suo sogno malato. Sì. Giungiamo al grande capolavoro, immagino. Sì, ce lo siamo lasciati in fondo, Ubik del 1969, I cacciatori di androidi erano del 68, il giorno prima, l'anno prima, cioè per darvi anche la dimensione di quanto cazzo scriveva, cioè lui veramente una volta all'anno buttava fuori un capolavoro o anche a volte più di uno in un anno. E nel 69 lui scrive Ubik, di cui è veramente difficile parlare perché io, si diceva prima fuori dai microfoni, io Ubik l'ho letto tanti anni fa e lo ricordo, attualmente ce l'ho classificato nel mio cervello come tipo una delle cose più belle di Dick che io abbia mai letto, proprio bellissimo, stata a ridere tutto il tempo, cioè proprio bello, bello, bello, bello, non lo saprei riraccontare. No. E mi dicevo, ma cazzo, forse è perché ho passato tempo, tanto tempo. No, e poi ho capito, no, è che è veramente onirico, cioè è un trip, è un grosso trip dove la trama è assolutamente irrilevante. Ci sono le grandi e famose frasi che sono rimaste scolpite, sì. Cioè io sono vivo e voi siete morti. Ci dice questo. quella mai troppo citata. E sì, è un'atmosfera super allucinatoria dove si intrecciano i piani delle realtà. Dicevamo anche l'altra volta, che l'altra puntata l'abbiamo approfondito un bel po', che questo comunque è uno degli argomenti preferiti di Dick, e visto anche in chiave liberatoria, non soltanto così morboso e what if, cioè non soltanto un chissà se la nostra realtà non è quella vera. No, è proprio anche un modo per qualche modo tirare giù dal piedistallo la realtà in cui viviamo, ma in fondo la nostra realtà è questa, ma come questa avrebbero pari dignità tantissime altre realtà e non sappiamo qual è più vera delle altre. Con quest'ottica Dick scrive Ubik, dove ci sono appunto queste interferenze di due piani della realtà, uno dei due in continua trasformazione, quindi è veramente difficile orientarsi in questo mondo. Anche qui è ambientato più o meno nel futuro e c'è diciamo che il sottofondo è questo spionaggio industriale che è fondamentale, attraverso il quale si dipana un po' tutta la storia e che è un po' il tema centrale di quella società. È una guerra che viene combattuta con tutte le armi e soprattutto con i poteri psi, quelli che lui chiama i poteri psionici, quindi i poteri paranormali, telecinetici, di saper leggere nella mente, insomma, tutti questi vari poteri, telepatia, telecinesi, bla bla bla. E tutti questi personaggi che, come dicevamo prima, normalmente vengono un po' vissuti, cioè sono un po' bollati come i freaks, i poracci, così come in tutta le saghe di supereroi, anche in Dick assumono una grossa dignità e vengono ritirati su, risollevati, perché in questo caso diventano gli eroi di questa guerra, perché loro sono le armi di fatto per scoprire i segreti delle varie aziende, le varie multinazionali. Ogni azienda assume questi telepati, questi telecinetici che devono, sono incaricati di scoprire i vari segreti con qualsiasi arma a loro disposizione. E in questo caso, appunto, se vagamente possiamo parlare di trama, i protagonisti sono un uomo d'affari e il suo tecnico, anche qua ricorre, sono un po' questa coppia di colleghi che però sono diventati anche amici. Tra l'altro c'è la storia parallela interessante, perché uno dei due, l'uomo d'affari, ha questo rapporto strano con la moglie, perché la moglie tecnicamente sarebbe morta, ma non è veramente morta. Esatto. Perché viene tenuta in questo stato un po' di limbo. Sì. Dove lui può fargli delle domande. Sì. Ogni tanto la può consultare, ma questo le consuma della vita. Esatto. Quindi abbastanza particolare. E quindi ci sono questi due che si devono, si ritrovano sulla luna per affari, e lì inizia il delirio, perché si ritrovano in questo mondo che è completamente impazzito. C'è questa cosa fichissima delle tecnologie che regrediscono. Incredibile. È stupendo. Tipo che te c'hai in mano lo smartphone e piano e in mano ti si ritrasforma in un telex. Sì, oppure ci sono i razzi interplanetari per andare da un pianeta all'altro e si trasformano in aerei ad elica. Bellissimo, questa cosa a me mi piace da morire. E quindi sì, c'è tutto questo delirio. Il mondo è ora, al di là di queste cose, è anche pervaso da una generale pulsione di morte. Non si capisce bene il perché e il per come, ma tutte le cose, gli esseri viventi, tutto quello che esiste su quel pianeta tende a morire. A un certo punto comincia piano piano, uno per uno, a morire. E in questo c'è tutta la trama assurda di Ubik, inesplicabile, che non vale la pena neanche spiegarvi. È difficile, ma sarebbe anche sbagliato. Perché cioè, c'è una spiegazione godere di fondo poi, no? Poi nei romanzi onirici anche la spiegazione in realtà non è una vera spiegazione. Ci sarebbe, ora però vi spoilereremo un po' tutto. E quindi non vi diremo tutto. Non vi diremo niente da ora in poi. No, diciamo che leggetevelo, diventa tutto un delirio. Poi questo delirio potrebbe trovare insomma, tornare. Però ti rimane sempre il dubbio, in realtà, no? Ecco, prendendo per il culo. È come prima, no? Cioè, ti svegli dal sogno della psiche di qualcuno, ma davvero ti sei svegliato o sei di una nuova psiche? Sì. La questione è sempre quella, non lo sai se sei veramente sveglio. Cioè, la cosa che io trovo veramente bella di Dick è che partecipa con te di questo delirio. Cioè, non è una roba intellettuale, come ho visto in altri casi, di questi che si beano della loro bravura nel disorientarti. Che è una cosa che io trovo veramente fastidiosa, no? Di questi scrittori, o anche a me dà fastidio anche tipo Villeneuve, comunque che registi, sì. No? Che gli piace farti disorientarti, portarti per mano dove gli pare a loro e poi smollarti lì a cazzo e dirti: ah, quanto sono stato bravo. No, Dick si perde con te, partecipa del tuo perdersi, e quindi è bello, e non è supponente, non è antipatico, come dire, è divertente. È e quindi sì, questo era Ubik del 69. In realtà ci rimane tra le opere da citarvi, ma che non approfondiremo, tutti i racconti, di cui non possiamo dirvi le trame perché veramente sono botto, ma che vi esortiamo a leggere perché sono bellissimi. Ci sono diverse raccolte che sono uscite, si trovano anche a pochi soldi e comunque nei migliori circuiti di file sharing li trovate a bizzeffe, anche in formato digitale. Leggeteli perché i racconti sono veramente belli, sono molto divertenti, molto vari, e ce n'è un po' per tutti i gusti, dai robot agli alieni alla critica alla società capitalista, di tutto c'è, e condensato in racconti piccoli e molto godibili. Sì, assolutamente, fichissimo. C'è qualcosa che vi può aiutare, ne parleremo fra poco, perché c'è una trasposizione, diciamo, a serie, che riprende gli Electric Dreams, proprio quelli, proprio parte di questi romanzi, di questi racconti brevi, che sono fichi, E sono fatte anche abbastanza bene. Quindi rimanete con noi, perché ora parleremo di... No, dico bene, o abbiamo altri romanzi da tirare? Sì, no, direi di sì. Magari ci prendiamo un attimo una pausa e poi ritorniamo con l'ultima. Anche senza pausa, dici? No, facciamola. No, vedevo... sì, perché così poi entriamo nell'ultima parte della puntata di quest'oggi, dedicata alle opere di Dick, e vi racconteremo un po' delle trasposizioni in film di tutte quelle opere che sono state influenzate o direttamente o indirettamente dalle opere di Dick, e quindi tutto il Dick che ritroviamo nel film e quant'altro. Stiamo parlando di Philip Dick. Abbiamo appena fatto un po' una carrellata di molte sue opere veramente incredibili. E stavamo dicendo, vi abbiamo consigliato di leggere i racconti. Fatelo. Anche perché estate, dai, in estate il racconto è proprio il suo. Te ne leggi tipo 20. Esatto. Se non c'hai voglia, smetti, vai a fare un bagno e ciao. Bagno, bisogna vedere se sei vicino alla fonte d'acqua. Bagno però... di sudore, ma vabbè. Esatto. Allora, iniziamo. Io inizierei dalla tua pessima esperienza. Sì, allora, perché ieri nel preparare la trasmissione ho ben pensato di vedermi, ho detto no, prepariamoci, guardiamo un film tratto dalle opere di Dick, così per poi poterne parlare in trasmissione. E quindi mi sono guardata I Guardiani del Destino, che è un film del 2011 con, non mi ricordo il regista, ma mi sembra anche per, così, non mi sembra importante citarlo, anche perché forse gli voglio bene. Non citiamolo, vai. No, con Matt Damon e Emily Blunt, invece loro li voglio citare. Un film orrendo, cioè veramente orrendo, che in teoria sarebbe tratto da Squadra Riparazioni, non mi ricordo, mi sa un racconto di Dick, Adjustment Team. Anche qui è buffo perché appunto Dick rivoga la questione dei riparatori, dei tecnici. E io mi sono guardata questo film dicendo appunto vabbè, so che è tratto da un racconto di Dick, guardiamolo. E pensavo che più o meno, insomma, magari sicuramente sarebbe stato un po' stravolto, ma più o meno. E la trama era orrenda, cioè nel senso, la trama di sto film era sta roba hollywoodiana veramente zuccherosa, di questo tizio che a un certo punto conosce una tipa, cioè lui è un candidato alla presidenza o comunque un deputato, insomma un politico. Ok. A un certo punto ci sono una serie di vicissitudini assolutamente noiose nel film che non vi sto a raccontare. Fatto sta che il punto centrale è che lui incontra questa ballerina per caso, questa fighissima Emily Blunt. E a un certo punto, niente, ovviamente si innamora, perché vuoi che non succeda. E contestualmente, cioè mentre lei gli dà il numero e tutte cose, poi si dividono con la promessa di ci rincontreremo sicuramente, e lui contestualmente a un certo punto scopre che il mondo che conosceva è un mondo in realtà in preda a delle forze oscure che non meglio identificate nel film, dove ci sono questi tizi che sono un po' dei burocrati, appaiono come dei burocrati nel film, sono vestiti in giacca e cravatta con questi cappelli, sembrano un po' dei, appunto, forse quasi agenti della CIA come vengono dipinti. Comunque sono dei burocrati che hanno il compito di come dire, intervenire, riparare il destino quando il destino viene portato fuori dal seminato di quello che era un disegno preconfezionato di quello che deve essere il mondo. E quindi, tipo, che ne so, lui a un certo punto viene fuori che lui non deve conoscere questa tizia. Il fatto che ha conosciuto questa tizia devia dal disegno dell'umanità, cioè fa succedere poi un effetto farfalla, quindi poi succedono un sacco di casini mai spiegati. Tant'è, però, insomma, ci dobbiamo fidare, e quindi evidentemente c'è un leggero narcisismo, tutto questo pervade tutto questo film, cioè comunque il destino e la vita personale di Matt Damon è chiaramente il centro dell'universo, per cui qualsiasi cosa che lo riguarda porterà catastrofi o meraviglie in tutta l'umanità, non si sa bene perché, però dobbiamo fidarci. Fatto sta che, insomma, questo qui non intervengono questi tizi che gli dicono: no, guarda, tu hai visto troppo, tu non devi conoscere questa tipa, ora tu o ti resettiamo la memoria e diventi fondamentalmente un lobotomizzato, o se no tu questa tipa non la dovrai conoscere, devi rinunciare al tuo grande amore, che improvvisamente è diventato il grande amore. E quindi da lì in poi c'è questa fuga di questi due, si vorrebbero ritrovare, vengono divisi, due palle incredibili. E io mi chiedevo, ma scusa, ma davvero Dick ha scritto sta stronzata? No, non c'entra niente. No, non c'entra un cazzo. Sono andata a vedere perché poi ho detto, no, adesso io mi guardo questo Adjustment Team, che cazzo diceva. Ma Dick ha scritto tipo un quinto di tutto ciò? Sì, sì. Ha fatto un racconto divertente, sempre sui piani di paralleli, di realtà che si incrociano. Ma non ha mai detto niente di tutto ciò, non c'era proprio niente di tutto questo. Questo per dire, sì, la mia esperienza tragica, che però è abbastanza emblematica, perché molto spesso le opere di Dick vengono prese per poi essere stravolte in un film che non c'entra un cazzo. Ecco. è vero, è vero. Il mio giudizio lapidario così. E infatti abbiamo già detto delle discrepanze di Blade Runner, quindi del cacciatore di androidi e... È ancora lì, almeno, e... almeno lì ha fatto un bel film. Esatto, e... Blade Runner. Mi è venuto, sì, no, mi è venuto un dubbio, scusami. No, pensavo avessi avuto un lapsus. Oddio, un dubbio su Blade Runner. Sì, sì, sì. Vabbè. Vabbè, comunque... Non so se te lo posso fugare io. Guarda, forse nell'internet, l'internet è più affidabile di me. Mi sento di così poter azzardare questo giudizio. Ti vedo dubbioso, però. Tu così stai. No, mi domandavo se anche gli androidi sognano pecore elettriche. Sì, è lui. È sempre lui. È lui. Sì, è vero. Abbiamo citato finora il titolo I cacciatori di androidi perché è l'ultimo titolo con cui è uscito, esatto, in italiano. Ma originariamente era stato tradotto o con Blade Runner per così far capire, sì, era il film, oppure anche gli androidi sognano. No, gli androidi sognano pecore elettriche, che sì, è più simile al titolo vero, perché il titolo vero è The Android Electric Dream, non mi ricordo, Sheep, bla bla bla bla, quello là. Non no, so infatti, l'inglese. Mi era venuto, esatto, no, mi era venuto il dubbio, di sospetto, ma infatti. Era quindi, quello. Blade Runner, quindi, si avvicina molto comunque nel suo concept centrale, perdendo per strada parti dell'ambientazione e un po' anche, però insomma alla fine gli diamo una positività, ecco, come sì, diciamo ha fatto un'altra cosa, però se però bella, dai. Avevamo parlato la volta scorsa, se non sbaglio, forse in altre puntate, anche di Minority Report. Giusto, Minority Report citato penso da chiunque quando bisogna parlare di oioi signora la tecnologia dove arriverà. Allora bisogna parlare o di 1984 oppure bisogna citare Minority Report. Sono le due tendenzialmente che vengono più quotati nelle citazioni. Esatto, no? Vi ricordo, l'avete visto sicuramente, se non l'avete visto comunque guardatelo perché è godibile come ma film. Sì. Il plot, insomma, così velocemente, un futuro in cui fondamentalmente non c'è più la polizia, ma c'è la polizia non c'è la polizia che sanziona un crimine avvenuto, ma sanziona i precrimini, cioè chi probabilmente, anzi sicuramente, secondo il sistema creato, porterà un crimine. Si parla tendenzialmente di crimini violenti, assassini. Insomma, non si parla, almeno non mi sembra che si parli mai, non so, di che ne so, una magari rapina sì, ma non di una truffa, non di un i crimini, insomma, sono di molteplici aspetti. E fondamentalmente il protagonista, che è un investigatore di questa pre-crime, che si basa tutto sull'esistenza di questi tre queste tre figure di persone con dei poteri psionici che riescono, grazie ai loro poteri e all'unione fra loro tre, a appunto riuscire a prevedere chi compierà un delitto. Ecco, lo stesso poliziotto verrà invischiato in un precrimine, verrà accusato, diciamo, di un precrimine. E qui come si fa? E qui come si fa? Il Tom Cruise. Esatto. E quindi da qui si sviluppa un po' tutta la storia rocambolesca all'interno del film, in cui scappa, in cui c'è azione, però il nucleo centrale rimane similmente a come ce lo narra Dick, perché questo prevedere i futuri crimini ha qualcosa che non va. C'è forse dietro un sistema di controllo sociale che va al di là della sicurezza, come spesso succede quando si usa la sicurezza come la sicurezza di tutti come scusante per un controllo maggiore. C'è qualcosa che non va. Sì, tra l'altro prima citavo con sarcasmo il fatto che viene spesso usato come appunto modello per dire ecco, vedete le società distopiche dove andremo a finire. In realtà non c'è bisogno di tirare in ballo le tecnologie moderne avveniristiche, cioè la precrimine, chiamiamola così, viene sperimentata tutt'oggi negli Stati Uniti, in diversi certo. posti si sta sperimentando questa roba. Non è nient'altro che la cara vecchia polizia razzista, nel senso si finge di avere dei modelli statistici imparziali, in realtà tu semplicemente attraverso dei bias ormai abbastanza evidenti, acclarati e fin troppo noti, tu semplicemente decidi già che un reato contro la proprietà verrà fatto da cittadini afroamericani, poveri, con meno possibilità evidentemente di avere una vita che non li porti a rubare. C'è un grosso grazie al cazzo dietro tutto questo e non ci vuole un grande veggente. E quindi si mette la polizia, questo vi sto descrivendo appunto le attuali sperimentazioni precrimine. Te prendi e metti in una zona, che ne so, dove c'è un'alta densità di afroamericani, magari sottoproletari, da generazioni, migranti con difficoltà ad ottenere il permesso di soggiorno, te ci metti lì più polizia perché ti aspetti che lì ci saranno più crimini. Vabbè, grazie, te lo potevo dire anch'io, cioè non importava scomodare le altre tecnologie. Tutto ciò però viene fatto scomodando appunto magari grandi conquiste tecnologiche, parlando e anche sborsando un bel po' di soldi per poter dire di aver usato algoritmi di predizione, intelligenza artificiale o quant'altro, ma in realtà si tratta del banalissimo razzismo e colonialismo di sempre. Infatti, perché poi quello che ci racconta è questo, che la società capitalista, poi fondamentalmente, comunque diciamo una società del controllo, ti dice che non ci saranno crimini se c'è più controllo da parte dello Stato. Non che ci saranno meno crimini se tutti stanno meglio attraverso, che ne so, un welfare, una socialità meno tossica e più insomma, un'equità sociale. Ecco, esatto. Diciamo, no? Cioè è lì che c'hai meno crimini in realtà. Esatto. No? Sì, che probabilmente ti costa pure meno che mettere. Sì, cioè. Però ti ci vuole insieme di controllo. Tra l'altro mi fa riflettere, secondo me, questo rapporto di minoranza, perché a parte appunto il rapporto di minoranza, il titolo stesso è veramente interessante. Hollywood in questo ci si butta a capofitto, perché è un po' una delle armi, no, che il sistema di controllo porta avanti, perché l'Hollywood, soprattutto attraverso i polizieschi, no, i polizieschi che sono esplosi, anche a me piacciono tantissimo, per carità, hanno normalizzato il fatto che la polizia debba poter vedere in qualsiasi momento qualsiasi telecamera, qualsiasi... È vero, sì. E non solo, c'è anche il doppio passaggio, cioè la polizia, per poter punire chi ha sbagliato, chiaramente nel Hollywood ci fa vedere che chi ha sbagliato è un cattivissimo. Sì, quella, certo, roba lì. Può anche infrangere le regole. Perché comunque sta facendo la cosa giusta. Vabbè, certo. Quindi l'hacker che lavora per, no, che ne so, la CIA è buono. L'hacker che lavora invece fuori dalla CIA è cattivo. I white hat e i black hat. Esatto. Cosiddetti. Mm-hmm. Quindi io il Minority Report l'ho visto anche in quest'ottica qua. Cioè legato anche all'oggi. La sua visione è stata anche quella. Farci capire che il maggior controllo in realtà è una favola. Sì, assolutamente. E anche lì poi, ecco, mi sento di ributtare che comunque quei tre poracci che citavi, no, che gli psi, comunque sono visti come dei poracci, sì. Cioè che vengono sfruttati, tenuti a mollo dentro questo liquido amniotico in cui loro devono stare H24 a vivere gli incubi e le perversioni e continui delitti efferati per poter garantire che la polizia possa intervenire. E Dick su questo è molto cattivo, devo dire, molto comprensivo nei confronti loro e molto lapidario invece su come vengono sfruttati. Questo per quanto riguardava Minority Report. Invece c'è da citare Scanner Darkly, un oscuro scrutatore. È un bello riadattamento molto bello di Linklater. Beh, lui ha sempre fatto delle robe strabelle, secondo me, questo regista. E anche Scanner Darkly è in questo stile. Lo diceva, mi sembra l'altra scorsa sarà citato. Sì, l'abbiamo già parlato anche abbastanza profondamente. E infatti, quindi non entreremo troppo. Però, insomma, se non l'aveste sentito, vi consigliamo di andarlo a vedere, perché ci sembra un buon adattamento, perché ha anche un linguaggio narrativo simile a quello di Dick, seppur diverso, perché comunque è uno strumento diverso come quello del cinema. Però ci mette le animazioni, ci mette conserva questo mondo onirico, questo modo di narrare di Dick. E quindi è un buon adattamento questo, per una volta. Sono d'accordo. Sono d'accordo, e c'è anche un Keanu Reeves piuttosto in forma, devo in dire. In forma, sì, sì. Ci spostiamo invece a una serie, un serial legato invece ai racconti brevi, che è veramente interessante. E tra l'altro, quando l'ho visto, mi ha fatto pensare che in realtà, quando noi abbiamo osannato, o chi lo ha fatto, Black Mirror, mm-hmm. che effettivamente è, per carità, bellissimo. Almeno all'inizio sì, poi secondo me è diventato un po' noioso, ma vabbè. Black Mirror sì, la prima stagione bellissima, poi io non l'ho finita di vedere, in realtà non sono in pari per niente. No. Ma non c'ho proprio voglia, però comunque è roba fatta bene, per carità. E no, come sapete, Black Mirror fondamentalmente, diciamo, il nucleo centrale è prendere un qualche dispositivo di tecnologia all'interno dell'uomo, che può essere lo smartphone, come può essere, che ne so, un modo per ricordare artificiale mettendosi un chip nel cervello, e molto altro in app, realtà, di incontri e quant'altro. Esatto. In realtà Philip Dick ce ne aveva già parlato, ci aveva fatto delle storie anche belle pese. Forse più pese. Per certi versi più pese, sì, alcune non lo so cosa sia più pese, perché sono pesissimi tutti. Ce n'è una, e appunto sono state messe in trasposizione cinematografica con il titolo di Electric Dreams. Appunto, sogni elettronici, diciamo. Quindi sempre il leitmotiv è fantascienza e tecnologia, in qualche modo. E c'è della roba bella pesa anche lì. C'è della roba bella pesa. Io vi consiglio di guardarlo, perché c'è tipo una puntata incredibile sul concetto di nemico e su come la società sia talmente tanto non so come dire, malleabile dal punto di dalla televisione, manipolabile dalla televisione, cioè da ciò che appare, che appunto è un attimo diventare nemici di tutti. Un attimo. E c'è questa storia, fondamentalmente il plot veloce è che questo il nostro protagonista, a un certo punto, mentre si accorge che all'interno dei telegiornali, a un certo punto appaiono delle immagini così improvvise, subliminali, da parte del presidente, che gli spinge ad odiare qualcuno, diciamo una parte di popolazione. Se ne rende conto e comincia a dire: oh ragazzi, ma non vi siete resi conto di questa cosa? E questa sarà l'inizio della sua fine, perché lui se ne è reso conto, e da quel momento e gli altri no. Guarda, io sono stato malissimo, guarda, poco male. Gli altri invece ce ne sono alcuni un pochino più leggeri, carino, guardatelo. Comunque ideato e prodotto da Ronald D. Moore, che è comunque un discreto scrittore, adattatore insomma, in questo caso. Carini, guarda, non mi ricordo, su lo trovate scaricabili facilissimamente, sì, proprio facilissimo. Questa buono, quindi buono. Buono anche Man in the Castle, che vi abbiamo già citato, quindi non ci soffermeremo ulteriormente. E poi invece arrivavamo su alcune scene Terminator del 1984, che in realtà è un film di merda, cioè me ne rendo conto, cioè va detto, e non è che siamo qui a dire. Però Terminator, guardate che è stato seminale per un sacco di roba. Sono d'accordo. Per il cyberpunk, per le controculture digitali e non, anche italiane. Cioè, in realtà, volente o nolente, ha aperto un po' dei mondi. Comunque, era il 1984 e non è che questa roba proprio fosse sulla bocca di tutti, almeno in Italia e in Europa. Quindi, effettivamente, così, il nostro buon Schwarzenegger, prima di diventare governatore della California, ci ha ispirato in qualche maniera. Suo malgrado. E c'era un po' questa storia della guerra, dove ci sono questi androidi assassini che si mascherano da esseri umani e cercano di intrufolarsi nei rifugi. Insomma, ci sono delle diverse come dire, riferimenti al mondo di Dick. Non è chiaramente non è un adattamento, non è ripreso direttamente dalle opere di Dick, però c'è molto del suo mondo che si ritrova. Sicuramente questa cosa degli androidi visti con questa ambiguità, sì, chiaramente se non ci fosse stato Dick probabilmente Terminator sarebbe stato diverso, ecco. Tra l'altro leggevo che un'altra ispirazione è di cioè che pare essere, però questo mi sembra incredibile, però c'è scritto su, penso, Wikipedia, che un'altra fonte di ispirazione per il film di Terminator sia stato Frank Xerox di Tamburini e Liberatore. Sì, l'ho letto. Ora non lo stavo dicendo perché anche a me mi lascia un po' perplesso. Mi sembra un po' una banfata che si fanno, cioè, loro. La prima parte ci sta. Perché Modello 2, che è uno dei romanzi di Philip Dick, effettivamente quello certo lì c'è, cioè è gli Stati Uniti che stanno vincendo la guerra contro i russi, in un mondo stravolto dalle bombe nucleari, grazie all'utilizzo degli artigli, cioè robot automatici prodotti in maniera indipendente da fabbriche totalmente automatizzate. Il punto è che le fabbriche costruiscono modelli sempre più sviluppati, sempre più umani, e a un certo punto gli scappano di mano, e quindi da lì questi robot trasformati in umani vanno a caccia di umani a quel punto. E allora uno di questi, Modello 2, infiltrato in un gruppo di reduci dell'Armata Rossa, riesce a ingannare un ufficiale americano, guadagnando la sua fiducia e impadronendosi della navicella verso la Luna per invadere il quartier generale statunitense. Quindi è lì che Terminator ha preso un po'. Certo. Quell'altro sinceramente. Però guarda che effettivamente Rank Xerox è del 78, quindi è abbastanza precedente. Ebbe un suo successo perché comunque fu tradotta e pubblicata su Heavy Metal. Quindi in realtà ha girato, cioè non è una roba che ora noi, chiaramente per me Rank Xerox la metto nel cumulo delle cose nostre, come dire, della controcultura nostra. Allora, è un fumetto, per chi non lo sapesse. Sì, è un fumetto disegnato da Liberatore e Pazienza, ideata da Stefano Tamburini. Insomma, sono dei giganti del fumetto italiano, però personaggi che facevano parte anche dell'underground politico. Infatti Rank Xerox è estremamente politico, insomma siamo nel 78 ed era intriso anche di movimento di lotta moltissimo. E però effettivamente poi è uscita dall'Italia, è uscita dall'Europa, è stata pubblicata perfino su Heavy Metal, e ci sono delle somiglianze, effettivamente il personaggio di Xerox con Terminator ci potrebbe pure stare. Non ci sbilanciamo, ma io la lascerei aperta questa possibilità. Vabbè, effettivamente è una sorta di robot fortissimo, cattivissimo, però anche un po' sudicio, cioè non è il modello laccato e super brillante, anzi è un po' analogico per certi versi, infatti nasce da una stampante, da un cos'era? Sì, cioè, la Xerox. E quindi effettivamente Terminator, il Terminator buono effettivamente ha un po' quella ci sta usare. Poi sai quando gli americani lo fanno in chiave loro, lo fanno in chiave loro, cioè non ci rappresenta mai, però no. Effettivamente pensandola meglio hai ragione. Chissà. E poi andiamo avanti con le ispirazioni prese da Dick. La sceneggiatura di Truman Show pare presentare alcune analogie con Truman Show del 98, lo ricorderete, film di Peter Weir. No. Che ansia mi ha messo il film. Madonna mia. Tantissimo, no scusate, tutti ci leggano cose, ma non è che sono proprio... cioè, non è che sono citazioni conclamate che vengono riconosciute nel libro, però c'è chi ce le legge. Sia nella pellicola che nel romanzo di Dick il protagonista vive inconsapevolmente una realtà fittizia. E vabbè, questo ok, sotto la vigilanza di alcuni osservatori consapevoli, ad esempio il vicino di casa, gli addetti alle riparazioni della strada. A differenza del film, però, nel romanzo l'intera cittadina risulta inconsapevole della realtà fittizia in cui si sta vivendo, essendo composta da soggetti volontariamente sottoposti al lavaggio del cervello per dimenticare la loro precedente vita. C'è qualche analogia, insomma, diciamo che comunque il tema della realtà che si sgretola e del rendersi conto che tu stai vivendo in una realtà finta e che ci sono altre realtà più vere della tua, questo è un tema che in Dick ricorre tantissimo e che è stato preso poi da veramente tutto il mondo, cioè si ritrova, sì, di film senza dubbio annoverati nella categoria fantascienza e fantasy, penso che forse tipo tutti se non quasi sfruttano questo tema, quindi ora cioè, mi sembra anche un po' ridondante dirlo. Sì, no, cioè, di similare secondo me c'è questa cosa che questo mondo creato, questo mondo che non è una realtà, è la trasposizione del classico sogno americano, villette a schiera, tutto pulito, tutti felici, giornale che trovi davanti alla casa tutte le mattine, quello che vedresti in una pubblicità, no? che del progresso americano, e poi a un certo punto ti svegli e non è così. E questi sicuramente sono i tipici mondi di Dick o di Ballard, anche del resto. Anche di Ballard, è vero. E un altro film di Linklater è quello di Waking Life del 2001, l'abbiamo già citato anche questo, che parla un po' della separazione tra sonno e la veglia, i sogni lucidi e tutto quel mondo lì, e anche lì insomma in realtà qui proprio esplicitamente Linklater si rifà a Dick, come vi raccontavamo già l'altra volta, e si parla proprio soprattutto nel finale di riferimenti proprio espliciti alla vita di Dick, alle sue esperienze, quindi qui il riferimento è diretto. Poi c'è Matrix, ovviamente l'avevamo già detto se non sbaglio anche la volta scorsa. Sì, pure lì le sorelle Wachowski hanno attinto a piene mani, ma vabbè, ma come dire, anche lì cioè, ma tutti abbiamo attinto a Dick, cioè credo cioè, ce l'abbiamo nel cervello, fa parte ormai del nostro inconscio collettivo secondo me, quindi è chiaro che poi ti salta fuori. Inception l'abbiamo già citato, altra appunto evidente, insomma, che ha tratto evidentemente dai racconti di Philip Dick, insomma l'abbiamo detto prima, quindi non stiamo a ripeterci. Interessante invece il film Dylan, sempre... No, scusa, mi stavo confondendo Shutter Island. Lo sai anch'io? Lo sai anch'io. Infatti stavo per lanciarmi su Scorsese, certo. Esatto. Che invece... comunque ci poteva stare, eh? Sì, tra l'altro. Anzi, assolutamente. Allora, no, molto più brutto. 2005. Sì. Michael Island, Bay. Ispirato palesemente alla penultima verità. Però c'è Ewan McGregor e Scarlett Johansson, quindi nessuno avrà fatto caso alla trama del film, oggettivamente. Quindi va bene così. Però sì. Praticamente in un futuro imprecisato la maggior parte dell'umanità, questa è la trama del romanzo, è ridotta a vivere in enormi villaggi sotterranei, detti formicai, e a produrre androidi, Plumbei, che possono combattere nella guerra combattuta sulla superficie fra le democrazie occidentali, Democh, ovvero Europa e Stati Uniti d'America, e l'Unione Popolare, URSS e Asia. Così. Ma guarda, in realtà la guerra è terminata da tempo e i Plumbei prodotti vengono usati come fedeli servitori dalla classe dirigente. Parlavamo la volta scorsa di La penultima verità, che è proprio questo qua, appunto. Ne parlavamo perché la collegavamo anche a Fallout, alla questione di Fallout. Infatti, sì. E che poi a sua volta si ricollega al cronache del dopobomba, sempre di Dick. Allora, adesso andremo a esplorare in diretta che cosa sono le pellicole come Apri gli occhi e Dark City, che io non conosco. Ecco, perché infatti ce lo chiedevamo, perché ci siamo puntati questo fatto, che ci sono questi film che vengono, ma non sappiamo che cazzo di film si tratta. Ma infatti noi siamo una trasmissione verità, noi non vi nascondiamo niente e adesso vi diremo di cosa parlano andandolo a leggere su Wikipedia. No, però sì, comunque ora sto scrivendo... Su Google. No, è così. Non ci vergogniamo di niente. Io uso Ecosia. Però è uguale. Cos'è che usi? Ecosia, che è Google, però per ogni cosa piantano gli alberi. Per ogni ricerca che fai. Vabbè. così quasi un po' fricchetto, un po' radical chic. Ma noi ribadisco, non ci vergogniamo di niente. No, non abbiamo segreti, poi è luglio, cioè se fa caldo, cioè ci potete far dire di tutto. Allora, io però lo sto cercando e non lo sto trovato, dirò la verità. Senti, ma esistono questi film? Ah no, apri gli occhi, non come apri gli occhi, come è un'altra roba. Cioè come era... apri gli occhi, sì, c'è tra l'altro una Penelope Cruz, ah, giovanissima, ma è cos'è, Almodovar? Addirittura? No, Alejandro Amenábar. Ah, non lo conosco. Ah, aspetta, è un film, il 97, scritto e diretto da Alejandro Amenábar. Vabbè, Vanilla Sky di Cameron Crowe è il remake hollywoodiano di questo film. Ma dici, ah pure. Una voce femminile ripete ossessivamente riaprire gli occhi. È la suoneria di una sveglia. Cesar, avvenente giovane madrileno, ricco e di successo, è rinchiuso in un ospedale psichiatrico giudiziario, con l'accusa di omicidio e con il volto orribilmente sfigurato, celato da una maschera. La maschera di ferro. L'uomo narra l'antefatto a uno psichiatra che dovrà redigere una perizia da presentare al giudice. Alla sua festa di compleanno, Cesar incontra la bella Sofia e tra i due scaturisce un'immediata intesa. Il giorno dopo, Nuria, sua ex amante, molto gelosa, lo invita a salire in macchina per un ultimo incontro di sesso. Ma la donna provoca deliberatamente un incidente nel quale lei resta uccisa e Cesar orribilmente sfigurato. Sveglia, cioè come... Brava! Il giovane prova a ricontattare Sofia, ma lei lo allontana, imbarazzata per il suo aspetto, per poi rivederlo e confidargli il suo amore. Poco tempo dopo, Cesar si sottopone a un salvifico intervento chirurgico al volto, riacquistando le sue sembianze, e i due tornano insieme. Ma cos'è, allora, Subito? Sono già annoiato. Ma cos'è? E questo era, aspettami, apri gli occhi? Apri gli occhi. E perché dovrebbe assomigliare, cioè dovrebbe essere ispirato a Dick? Non si sa. Vabbè, ma se vuoi invece ti racconto Dark City. Grazie, volentieri. Che invece è un filmone del 1998, scritto e diretto da Alex Proyas, ma non vi fate illudere, è comunque americano, è interpretato da William Hurt, però dai, William Hurt, vabbè. Insomma, John Murdock si risveglia nella vasca da bagno di un hotel in preda all'amnesia. Dopo essersi vestito e sistemato, riceve una telefonata da parte del dottor Schreiber che gli ordina di fuggire immediatamente perché alcuni uomini lo inseguono. Ottima trama comunque anche questa. Durante la telefonata John scopre il cadavere di una donna con degli strani simboli a spirale incisi sulla pelle e un coltello sporco di sangue. Scappa dall'albergo quando arrivano tre sinistri uomini con abiti e cappelli neri, gli stranieri. Vabbè, anche Wikipedia comunque ci mette del suo, non usando l'italiano. Sforzandosi, John si ricorda del proprio nome e ritrova la moglie Emma. Ma dove la ritrova? Vabbè, la ritrova. Nel frattempo viene braccato anche dall'ispettore Frank Bumstead, dato che viene accusato di aver compiuto una serie di omicidi. Ma mi pare infatti che sembrava che John, per via dell'amnesia, non ricorda. Mentre perseguitato dagli stranieri, John scopre di possedere poteri psicocinetici come loro, che sfrutta per la fuga. Vabbè, e poi ti risparmio il resto della trama, che è sicuramente denso di colpi di scena. Allora, io ho capito perché c'è la citazione invece della mia, del mio amore degli occhi. Qui era facile perché era psicocinetico. Qui, esatto, era facile. Qua invece era che poi le donne praticamente in continuazione si alternano. Cioè lui si sveglia la mattina e c'è una che in teoria doveva essere morta, si sveglia la mattina dopo c'è quell'altra. E, insomma, alla fine capisce che in realtà lui è praticamente chiuso dentro un sogno perché ha stipulato con un'azienda che si chiama Life Extension. Praticamente stava morendo, l'hanno messo in ibernazione, come il racconto dicevamo prima. I monumentum di già non mi ricordo di coso. Ora vabbè, ora te lo dico, poi ora mi sfugge. E quindi in realtà lui si sta sognando tutto, non è la realtà. Ah. E per quello non torna niente, è tutto onirico in quel senso. Vabbè, e comunque Vanilla... sono bravi tutti così a citare Dick. Sì, sì, esatto, esatto. Vale vabbè, tutto. Comunque, ora sapete di cosa pare Dark e anche Apri gli occhi, se vi interessa. Ma infatti noi siamo qui per voi, per fare questa radio di servizio dove vi raccontiamo i film che non avreste mai voluto vedere. Ok, abbiamo terminato in realtà per oggi. Sì. Sì, abbiamo finito e vabbè, ci stava una puntatona su Dick, la seconda puntatona. Come si fa a essere sintetici quando si parla di Dick? Impossibile. Non si può, non si può. Quindi vi diamo appuntamento. Che dici, te ci sei, sei al mare? No? Boh, chissà. Fra due settimane non sarò al mare. Ma dove vai? Infatti neanch'io. E quindi ci risentiamo, tristemente. No, non è vero, con grande... Sono al lavoro. Ma infatti, con grande entusiasmo ci risentiamo nella calda tana del Wombat su Radio Wombat lunedì 15 luglio, ovviamente sempre su Radio Wombat. E quindi una buona serata a tutte e tutti voi. Super Wombat! Ciao! Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. Il sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.